innamora, innamora. Basta solo un'anima sincera sul palpito di un cuore, prima amore, prima amara. Aprile, aprile, sveglia di Maria, dolce dormire, ma chi può dormire? Quanti ricordi mi ricordi tu? Vorrei dormire e non svegliarmi più. Raggio di sole torna a sospirar, quelle parole che non so scordar, come una musica che nasce dall'amore, che resta in passo non si può dimenticar. Perduta capinera, ogni rondine d'aprile cerca un nido che si infiora. Canta come dolce primavera, ma la vita senza amore, come triste, come amara. Aprile, aprile, sveglia di morire, dolce dormire, ma chi può dormire? Quanti ricordi mi ricordi tu? Vorrei dormire e non svegliarmi più. Raggio di sole torna a sospirar, quelle parole che non so scordar, come una musica che nasce dall'amore. Ti voglio.